Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 17:06, nuovo appuntamento con Focus Economia. Di cosa parleremo oggi? Un aggiornamento sul decreto anticrisi, il via libera da parte delle commissioni e poi inizierà nei prossimi giorni l'esame da parte dell'Aula e poi, come avete sentito nel corso del nostro giornale radio, parleremo del piano casa. Un piano casa diverso da quello di cui si è parlato moltissimo nel corso dell'inverno, e cioè l'ampliamento delle case esistenti. In questo caso invece si parla di nuove costruzioni di edilizia popolare per favorire tutti coloro che hanno più difficoltà per comprare una casa o anche per affittare una casa. E poi parleremo di una manifestazione che si è svolta questa mattina a Roma, delle imprese che resistono, piccoli e medi imprenditori che si sono dati appuntamento nella capitale per portare le proprie istanze al Ministero dell'Economia. Ampio spazio ai mercati, aggiornamento sul caso risanamento dopo le dimissioni del presidente e amministratore delegato Luigi Zunino. A proposito di mercati, uno sguardo molto veloce a quello che sta accadendo sui mercati in questo momento. Sui listini, Parigi guadagna l'1,08%, Francoforte l'1,32%, Londra l'1,11%, a Milano il FTSE Italia All Share guadagna l'1,66%, il FTSE MIB l'1,75%, un'altra giornata quindi positiva per l'Europa. Negli Stati Uniti il Dow Jones guadagna lo 0,65%, il Nasdaq invece cede terreno, meno 0,19%, lo Standard & Poor's è sostanzialmente piatto, più 0,09% in questo istante. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,4227 sul dollaro. 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso le nostre notizie in breve. Come sempre partiamo dal petrolio, il greggio apre in rialzo a $65,18 a New York, quindi nei primi scambi il petrolio guadagna l'1,9%. Parliamo di economia internazionale, vi riportiamo le parole di Ben Bernanke nel corso dell'audizione semestrale alla Camera. L'economia americana mostra segnali di stabilizzazione, la Fed intende mantenere accomodante la propria politica monetaria per un periodo esteso, questo ha detto il presidente della Fed. E poi ancora, il tasso di rallentamento dell'economia è rallentato significativamente, ma i mercati, sembra un gioco di parole ma non è così, ma i mercati finanziari restano sotto pressione, questo è quanto ha detto Bernanke. Ancora, per quanto riguarda i rischi sulla disoccupazione, importanti rischi al ribasso gravano sui consumi e sulle spese delle famiglie, ha affermato il presidente della Fed, evidenziando che il mercato del lavoro resta fragile e la disoccupazione toccherà il suo picco alla fine dell'anno. La recessione colpisce duramente la capitale del gioco americana Las Vegas, la famosissima città casinò del Nevada in ginocchio a causa del brusco calo del turismo, da sempre suo motore di crescita. Las Vegas sfrutta il settore turistico come principale fonte di ricchezza, garantendo un lavoro continuo a chi vuole investire nel mercato delle costruzioni. Secondo il Wall Street Journal, ora che i soggiorni nella città sono diminuiti, le aziende non riescono a reagire. Più di 10.000 persone avrebbero lasciato la città solo nell'ultimo anno. La colpa è in primo luogo del tasso di disoccupazione, che dal 2007 è triplicato, passando dal 4 al 12,3%. Veniamo in Italia, sono estremamente contento dei risultati, questo è quanto ha detto il presidente di Fiat Luca Cordero di Montezemolo, riferendosi alla seconda trimestrale dell'azienda torinese attesa per domani, questo lo ha detto a margine di un'iniziativa della Camera di Commercio di Prato. E poi ancora, la questione Opel non mi sembra che sia ancora chiusa a livello di decisioni, questo è quanto ha detto Montezemolo, mi sembra che su questo la Fiat, attraverso la posizione molto chiara che ha preso Marchionne, abbia sostenuto che c'è un'offerta, però ne siamo fuori, lo ha detto appunto il presidente di Fiat. Parliamo ancora di industria automobilistica. Il settore è in transizione, il consolidamento su larga scala e la bancarotta dei due maggiori produttori lo hanno cominciato ad avviare. L'analisi di Standard & Poor's sul settore, secondo l'agenzia di rating, però il fondo della crisi non è ancora stato toccato e il 2010, si legge in una nota, sarà per le vendite l'anno peggiore da decenni. Parliamo di Telecom Italia. Dopo una non-stop durata quasi 24 ore, si è chiuso il confronto tra la Telecom e i sindacati. Con l'aiuto del Ministero, questo è quanto hanno fatto sapere fonti sindacali, è stato trovato un accordo sugli esuberi. Non ci sarà mobilità e al posto dei licenziamenti i contratti di solidarietà. Su questo ha parlato il ministro del Welfare Maurizio Sacconi. Sono molto soddisfatto per la conclusione di questa vertenza. Sentiamo quanto ha detto. Sono molto soddisfatto per la conclusione di questa vertenza perché avevo rivolto un esplicito invito alla Telecom ad una moratoria dei licenziamenti, quindi a una rinuncia ad essi per sostituirli preferibilmente con contratti di solidarietà. La cosa è avvenuta, l'intesa ha soprattutto questa caratteristica, oltre a impegni che riguardano anche la formazione. Quindi, seppure attraverso un negoziato faticoso, per il quale il nostro Ministero ha svolto una utile funzione di mediazione, siamo giunti a un buon risultato. Quindi, nell'insieme, il nostro Paese si conferma come un Paese nel quale i rapporti di lavoro nella crisi vengono quanto più mantenuti, anche se talora si riducono le ore lavorate. Il ministro del Welfare ha parlato al microfono del nostro Savino Gallo. Parliamo di risanamento, ne continueremo poi a parlare nel corso della trasmissione. La società, dopo il CDA che ha annunciato le dimissioni di Luigi Zunino, è stata riammessa agli scambi in borsa. Il titolo però questa mattina non è riuscito a fare prezzo, è rimasto in asta di volatilità con un calo teorico del 45,4%. Poi è rientrato agli scambi a Piazza Affari, è riuscito a fare prezzo a 0,24 euro con un crollo del 34%. Pochi minuti e il titolo è stato nuovamente fermato in asta di volatilità. Parmalat. Nonostante la bancarotta da 14 miliardi che bruciò i soldi di 100.000 risparmiatori, Stefano Tanzi riceverà da Parmalat un TFR di 184.000 euro per gli anni di lavoro nell'azienda del padre Calisto. Questo è quanto ha deciso il Tribunale di Parma, che ha inserito Stefano Tanzi tra i creditori privilegiati dell'azienda di Collecchio. Per il crack Parmalat ricordiamo che Stefano Tanzi ha patteggiato una condanna di 4 anni e 10 mesi. Economia italiana, gli ultimi dati macro corretti per ciclo confermano la tenuta del bilancio. Questo è quanto ha detto il ministro dell'economia Giulio Tremonti in audizione sul DPEF davanti alle commissioni bilancio e finanze del Senato. Se il governo avesse messo in campo interventi più coraggiosi per fronteggiare la crisi, ci sarebbero stati più costi per gli italiani. Questo è quanto ha detto Tremonti, il quale ha anche sottolineato: le entrate tengono, la caduta si sta fermando. Sentiamolo. I dati che abbiamo finora acquisiti sono di una qualche solidità. C'erano previsioni di crollo che non c'è stato, abbiamo fatto gli stessi numeri dell'anno scorso. Le entrate in Italia tengono nel loro gran totale e la caduta si sta in un qualche modo fermando. Questo non vuol dire che è superata in assoluto tutta la fase di criticità che abbiamo avuto alle spalle, che abbiamo, però sulle entrate vede un rallentamento della velocità di caduta. Ancora, sempre nel corso dell'audizione sul DPEF in Senato, il ministro dell'Economia rivendica la qualità delle diverse azioni intraprese dal governo per sostenere tutto il tessuto produttivo. Il governo ha fatto di tutto per tenere aperto il canale del credito dalle banche alle imprese, ha detto Tremonti. Finanza pubblica, tenuta struttura sociale, liquidità, credito alle imprese. Questi punti principali del DPEF, secondo il ministro dell'Economia, sentiamolo ancora. Il terzo obiettivo che abbiamo mirato è quello della conservazione della struttura produttiva, quanto più possibile aperto il canale del credito dalle banche alle imprese. La serie di interventi fatti, il primo la garanzia per il risparmio e poi progressivamente atti legislativi o atti amministrativi dai bond sottoscritti dal sistema bancario per finanziare le piccole e medie imprese, alle convenzioni fatte mettendo in campo la SACE e la Cassa Depositi, tutto è organizzato nel senso della conservazione quanto più possibile dell'apparato produttivo, tenendo aperti i canali del credito. Credo che, sommando tutti gli interventi fatti e da ultimo quello in atto, in discussione, un avviso comune per un obiettivo di moratoria sul credito a favore delle piccole e medie imprese, credo che tutti questi siano interventi positivi nella direzione della tenuta della conservazione dell'apparato produttivo. Merito agli ammortizzatori sociali, la scelta del governo di dirottare le risorse sugli ammortizzatori è stata fondamentale. L'Italia si caratterizza così per un alto grado di coesione sociale. Questo è quanto ha detto il ministro dell'Economia. La coesione sociale, ha aggiunto Tremonti, è il presupposto fondamentale per la tenuta economica. Ascoltiamolo. La scelta fondamentale operata nel dicembre dell'anno scorso e poi sviluppata nel corso di quest'anno è stata la concentrazione di tutte le risorse possibili disponibili sugli ammortizzatori sociali. La scelta di dirottare flussi e fondi da altre destinazioni meritevoli, ma non meritevoli quanto gli ammortizzatori sociali, è una scelta che consideriamo fondamentale. Questo è un paese che, anche per effetto di quella scelta, ci si presenta come un paese caratterizzato da un alto grado di coesione sociale. E questo non è solo un dato rilevante in termini civili, è un dato rilevante anche in termini economici, assumendo che la stabilità sociale è un presupposto fondamentale per la tenuta economica. Veniamo al primo punto che affrontiamo nella puntata di oggi, ovvero il decreto anticrisi, perché è arrivato il via libera delle commissioni bilancio e finanza a questo decreto e poi inizieranno ovviamente i lavori parlamentari. Siamo in collegamento con Roma, dove c'è il collega Vincenzo Miglietta, che saluto. Buon pomeriggio, Vincenzo. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Allora Vincenzo, quali le novità e come si sono svolti i lavori, che sono stati un po' concitati questa mattina, se non sbaglio, in commissione? Sì, è proprio così. Dopo giorni di lavori a rilento c'è stata una brusca accelerazione nell'esame del decreto in Commissione Bilancio e Finanze della Camera, che nel primo pomeriggio ha portato di fatto al via libera del DL anticrisi. Il testo arriverà così domani in aula a Montecitorio ed è pressoché scontato che il governo vi ponga la fiducia. Ricordiamo che il decreto deve passare ancora al Senato e Palazzo Chigi punta comunque alla sua approvazione prima della pausa estiva. Non sono mancate le polemiche per la procedura adottata. Al momento della votazione il Partito Democratico ha abbandonato i lavori, l'UDC non ha partecipato, mentre l'MPA, forza del centrodestra, lo ricordiamo, ha votato contro, sotto accusa la scelta dei relatori di maggioranza di raggruppare, di avallare sotto un unico maxi emendamento tutte le misure che mancavano ancora all'appello, fra queste lo scudo fiscale, la mini riforma delle pensioni con tanto di innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego ed ancora la Tremonti Ter con gli sgravi fiscali per il rafforzamento patrimoniale delle imprese. In mattinata avevano ottenuto invece il via libera la regolarizzazione di badanti e colf, le misure in favore delle piccole e medie imprese, ossia la possibilità di prevedere una moratoria per i costi finanziari da realizzare con l'Associazione Bancaria Italiana. Incidente di percorso infine per la maggioranza, andata sotto sull'energia elettrica, su un emendamento riguardante i costi di trasmissione e i relativi controlli da parte dell'Authority. Grazie a Vincenzo Miglietta in collegamento con noi da Roma. E intanto, proprio a proposito del decreto anticrisi, gli operatori del settore giochi, Sisal e Intralot Italia protestano per i contenuti di questo decreto che riguardano i criteri relativi al bando di gara per la gestione del gratta e vinci, al momento affidata in via esclusiva all'Ottomatica, perché anche questi criteri sono contenuti all'interno del decreto anticrisi. Secondo i due operatori, le condizioni per partecipare parrebbero troppo onerose e penalizzanti per i possibili concorrenti di Lottomatica. Il rischio, secondo Sisal e Intralot, è che queste, che a queste condizioni la gara vada praticamente deserta. E a questo proposito vi ricordiamo una notizia che è stata, vi è stata raccontata anche nel corso del giornale radio: non è stato riscosso il primo premio della Lotteria Italia 2008-2009 da 5 milioni di euro biglietto venduto a Roma. È scaduto ieri il termine ultimo per le richieste di pagamento dei biglietti vincenti e quest'anno l'ammontare dei premi non riscossi è di circa 7 milioni di euro. Si tratta della prima volta nella storia recente della Lotteria Italia che non viene riscosso il primo premio, che andrà ovviamente versato nelle casse dello Stato, quindi a questo punto. E noi invece passiamo al secondo punto da analizzare oggi, che è il piano casa. Prima però vi ricordo il nostro numero a cui potete inviare i vostri sms: 349-238-6666. Allora, lo dicevamo anche in apertura, c'è da fare una distinzione che poi lo sentirete, lo fa lo stesso ministro Tremonti nell'intervista di Simone Spezia. Questo piano casa riguarda nuove abitazioni, la costruzione di oltre 100.000 nuove abitazioni in 5 anni, quindi va distinto dal piano casa di cui si è parlato nei mesi scorsi, che prevedeva l'ampliamento delle case esistenti e per cui tutte le regioni si stanno attrezzando per applicare quel tipo di decreto. Con la firma da parte del Presidente del Consiglio Berlusconi si conclude l'iter procedurale per l'avvio di questo piano casa, che appunto si prefigge l'obiettivo di realizzare oltre 100.000 alloggi in 5 anni. A comunicarlo è stato proprio il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli, che ha spiegato come beneficiari del piano casa siano i nuclei familiari a basso reddito, le giovani coppie, gli anziani, insomma tutti coloro che sono in quelle classi sociali più svantaggiate. Ma allora sentiamo proprio l'intervista del collega Simone Spezia ad Altero Matteoli. Ci sono due aspetti: uno è la semplificazione che riguarda le regioni che stanno provvedendo a fare leggi per la semplificazione, sarebbe quella relativa all'ampliamento del 20%, all'abbattimento di case obsolete, la ricostruzione col 30% di cubatura in più. E il piano casa è tutt'altra una cosa. Il piano casa mira a realizzare oltre 100.000 abitazioni, 125.000 circa, sul territorio nazionale, per giovani coppie, per anziani, per studenti universitari, per coloro che hanno, per immigrati regolari a basso reddito che sono residenti in Italia da più di 10 anni, insomma per coloro che vivono in condizioni svantaggiate. Questa proposta, firma di questo DPCM quindi risolve il problema per i meno abbienti che hanno grandi difficoltà per l'accesso alla casa e nello stesso tempo crea lavoro per le piccole imprese del settore edilizio e quindi crea occupazione. Ministro, è un piano solamente edilizio o prevede anche la liberazione di una parte del patrimonio abitativo esistente, magari per esempio delle case, una parte delle case popolari, riutilizzo, ristrutturazione di alcune case popolari Ma non utilizzate? Ma questa è costruzione di nuove case. Esclusivamente. Questo si parla di costruzione di nuove case. In termini economici quanto vale questo piano? Gli investimenti a regime si stima che attrarrà circa 3 miliardi di euro. Tempi, ci diceva, 5 anni. Beh, però si parte subito, perché però il tempo previsto dal DPCM sono 5 anni. Un'ultima domanda sul fronte territoriale. Quali sono le regioni o le aree sulle quali ritiene che si debba intervenire di più? Beh, sicuramente nel settore è un po' difficile, perché nel meridione certamente ci sarà più necessità che altrove, ma io credo che poi spalmato su tutto il territorio nazionale andremo a verificare che le regioni saranno all'incirca tutte uguali, ecco. E poi qui naturalmente tutto questo dipende anche da come lavorano le regioni e gli enti locali per spingere a far sì che questo si realizzi in tempi brevi. E quindi anche probabilmente dalle necessità effettive di ogni singola regione o di ogni singola città. Naturale, naturale. Questo, a mio avviso, vale sempre per poi... l'uomo conta ancora, ecco, la capacità dell'assessore o del sindaco di velocizzare naturalmente inciderà sulla realizzazione del programma. Fino a questo momento ancora poche le reazioni politiche, però sul provvedimento sospende il giudizio il senatore Felice Belisario dell'Italia dei Valori, che ascoltiamo al microfono di Vincenzo Miglietta. Lo leggeremo, capiremo e poi andremo avanti. Se non è uno dei soliti spot che fa il Presidente del Consiglio, vogliamo capire se sarà il saccheggio d'Italia oppure servirà a rilanciare l'edilizia. Noi però, per parlare di questo piano casa, quantomeno delle linee generali, perché appunto il decreto, insomma, ne sappiamo ancora davvero poco, siamo in collegamento telefonico con Andrea Boitani, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano, che saluto. Buonasera professore. Buonasera. Allora professore, abbiamo sentito anche le parole del ministro Altero Matteoli, giustamente una differenziazione tra questo piano casa, che prevede la costruzione di 100.000, anzi oltre 100.000 nuovi alloggi, e quello che invece, di cui si è parlato moltissimo soprattutto nel corso di questo inverno, sull'ampliamento delle case esistenti. Professore, un piano che si attendeva da molti anni, quello dell'edilizia, tra virgolette, edilizia popolare. Attendeva da molti anni, ancora non è chiaro quali siano i contorni esatti di questo piano, perché il decreto è stato annunciato ma non è ancora pubblicato, e quindi è difficile esprimere un'opinione sull'efficacia del piano stesso. Però possiamo dire intanto che ci sono stati commenti positivi da parte di tutte le regioni, gli enti locali, anche perché è ovvio che anche attraverso l'accordo con questi enti è stato portato avanti questo decreto. Sì, questo è un aspetto certamente positivo, il fatto che si sia proceduto attraverso una concertazione preventiva con gli enti locali che hanno competenze specifiche in materia previste peraltro dalla Costituzione. Forse quello che preoccupa di più, stando almeno alle notizie che si hanno fino ad ora e quindi con possibilità di essere smentiti, è l'esiguità e la temporaneità del finanziamento. Certo, quindi ci riferiamo intanto, diciamo che il ministro Matteoli ha affermato che inizialmente si prevede un intervento di 200 milioni che poi potrebbero diventare 550, e potrebbe tutto questo attirare investimenti per 3 miliardi di euro. Lei ovviamente, stando a queste notizie, che sono poche notizie, che tutto potrebbe essere dovrebbe essere verificato nei prossimi giorni, secondo lei è possibile, plausibile che un decreto di questo tipo possa attirare investimenti per 3 miliardi di euro? Guardi, questo dipende molto dai meccanismi che verranno previsti nel decreto, e mi auguro che, diciamo, il decreto preveda quanto è sufficiente e necessario ad attirare effettivamente la mole di investimenti prevista. Tenga presente che uno stanziamento di 200 milioni, anche qualora diventassero 550, con 200 milioni diviso 100.000 alloggi si fa 2.000 euro d'alloggio, cioè quanto non serve a comprare neanche un metro quadro in una città come Milano, per esempio, anche se si trattasse di edilizia popolare. In molti periferici. Se arrivasse a 550 milioni si tratterebbe di 5.500 euro ad alloggio, cioè circa un metro quadro. Questo, diciamo, è ovviamente non è sufficiente a produrre quella, diciamo, quella quantità di nuovi edifici. È chiaro che perché si produca quel numero di alloggi previsto è necessario che vengano attirati numerosi altri fondi di provenienza sia pubblica che privata, certo. Altrimenti ovviamente è difficile che si possa far molto. Senta professore, per la tempistica le volevo chiedere, perché 5 anni sono un tempo relativamente breve, per costruire 125.000 alloggi, perché poi questa è la cifra a cui ha fatto riferimento il ministro Matteoli. Anche in questo caso lei la ritiene plausibile? Ma guardi, con i tempi di realizzazione in Italia è sempre difficile fare delle previsioni, diciamo, e generalmente qualsiasi previsione, pur pessimista, si faccia viene sempre superata dalla realtà. Sì, infatti. E quindi i 5 anni sembrerebbero essere poco probabili. Tuttavia, se si realizzasse uno sforzo veramente ingente e si concentrassero le risorse e tutte le energie produttive dei costruttori italiani, che sono tantissimi, come è noto, su questo piano, potrebbe essere realizzato, ma naturalmente ci vogliono le risorse tutte disponibili, altrimenti con risorse che arrivano a goccia è molto difficile che le realizzazioni possano avere i tempi, perché i costruttori, certo, non impegnerebbero tutte le energie che hanno su dei piani che sono scarsamente finanziati. Professore, l'ultima domanda, un argomento su cui il ministro non si è poi così tanto sbilanciato. A suo parere, secondo lei, dove dovrebbero essere concentrate maggiormente queste abitazioni? Ma guardi, la risposta le parrà ovvia: dove ce n'è più bisogno. Sì, certo. Però proprio a suo giudizio, dove geograficamente, perché sì, si parla del sud, però è anche vero che magari difficoltà di prezzo ce ne sono maggiori al nord. Credo che dicendo dove ce n'è più bisogno ci si riferisce soprattutto alle grandi metropoli, in particolare alle grandi città del nord, del centro, anche pensiamo a Roma, dove si sono presenti forti tensioni sui prezzi, sì, e dove c'è una larga fetta della popolazione in condizioni di bisogno e che è insoddisfatta dal punto di vista abitativo. Grazie al professor Andrea Boitani. Ovviamente abbiamo dovuto fare considerazioni piuttosto generali, perché, come giustamente ricordava anche il professore, il decreto non è ancora pubblicato, quindi non sappiamo esattamente i contenuti. Grazie comunque a lui per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie. Sono le 17:36 minuti, ben ritrovati in compagnia di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso torniamo a parlare di imprese che resistono. L'operazione di organizzazione della manifestazione è stata abbastanza semplice, nel senso che abbiamo lavorato 3 settimane or sono per organizzare questo appuntamento, a livello nazionale, per cui ovviamente utilizzando sempre il solito nostro blog che è, ne fa da padrona, siamo poi ricorsi al solito telefono e alle solite mail. Questa è l'organizzazione, di imprese che resistono. Dopodiché l'appuntamento era in piazza della Repubblica alle ore 10, quindi abbiamo radunato le persone dalle 10 alle 10:30, e poi ci è stato permesso ovviamente un corteo dove poi ci siamo recati davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quello che avete sentito è la voce di Luca Peotta. Vi chiederete chi è? È il portavoce di Imprese che Resistono. Forse vi ricordate che qualche tempo fa avevamo dedicato molto spazio a un imprenditore di Varese che ci aveva raccontato non solo i suoi guai come imprenditore, come piccolo imprenditore, ma anche questa iniziativa, appunto un blog dal titolo Imprese che Resistono, tutto attaccato, che cerca di convogliare tutte le necessità dei piccoli e medi imprenditori che in questo momento si trovano in grandissima difficoltà. Luca Peotta è il portavoce di questo blog delle Imprese che Resistono, a sua volta è titolare della Unireforn, che è una società che produce forni per l'industria con sede a Villa Faletto in provincia di Cuneo. Nella sua azienda, su 10 dipendenti, 9 sono in cassa integrazione. Imprese che Resistono ha all'attivo alcune assemblee tra il Piemonte e la Lombardia, e una manifestazione che si è svolta alla fine di giugno, se non sbaglio il 29 di giugno, per le strade di Torino, e poi la decisione di sfilare proprio per le vie della capitale. Questa mattina si sono ritrovati a Roma, erano in circa 300, poi ce lo racconterà il signor Peotta, hanno sfilato fino al Ministero dell'Economia, hanno presentato le proprie richieste, che sono punti molto concreti da realizzare in tempi brevi, per cui non chiedono modifiche a lunga scadenza, cose a lunga scadenza, ma chiedono moratorie per un breve periodo. Sentiamo ancora quanto ci ha raccontato il signor Peotta. Quanti eravate, signor Peotta? Ma così indicativamente circa un 300 persone, quindi insomma abbastanza numerosi, e abbiamo, diciamo, siamo riusciti, diciamo, a ottenere un buon risultato, perché poi siamo stati ovviamente ricevuti dal capo di gabinetto, e appunto abbiamo elencato quelli che sono i nostri 9 punti. C'è stato un effettivo riconoscimento da parte del capo di gabinetto, che sono 9 punti, diciamo, sensati, soprattutto il fatto che sono, diciamo, dei punti limitati nel tempo, quindi non stiamo chiedendo un qualche cosa a lungo termine, ma a breve termine, proprio per dare le possibilità alle piccole e medie imprese di resistere ulteriormente a questa crisi. Mi ricorda quali sono almeno i principali tra questi 9 punti, quelli che secondo voi sono quelli più importanti, quelli di cui avreste bisogno, diciamo, subito? Beh, diciamo che non c'è una vera e propria classifica, sono 9 punti dove l'ultimo ha la stessa valenza del primo, dove il secondo ha la valenza del penultimo, quindi andiamo dall'IRAP per gli anni 2009-2010, una riduzione dell'aliquota al 2% e ovviamente la messa a bilancio, l'accesso al credito, utilizzo a basso costo di consorzi di garanzia per l'accesso al credito, scadenze bancarie, spostamento in avanti 12 mesi senza onere e interessi delle scadenze di mutuo e leasing, le scadenze previdenziali, sempre un posticipo di 12 mesi, e il pagamento di tutti gli oneri previdenziali, ovviamente, scadenze fiscali e l'abolizione dell'anticipo delle imposte, sul credito d'imposta, l'adozione di una nuova legge Tremonti a valere sugli utili dei bilanci 2008 sotto forma di bonus fiscale, non per costruire capannoni, ma per resistere ovviamente alla crisi, il meccanismo IVA per cassa esteso a tutte le aziende nel periodo 2009-2010 indipendentemente dal fatturato, gli ammortizzatori sociali, un conteggio della cassa integrazione in giorni e non a settimane come adesso, ovviamente tenendo conto di una media del numero dei dipendenti, la certezza dei pagamenti, introduzione sul modello della legge francese di termini di pagamento. Avete avuto delle aperture, quindi anche, come dire, delle promesse per il futuro? Sì, allora adesso ovviamente questo veniva assolutamente valutato tecnicamente. C'è una questione tempo che ovviamente ne fa da padrona, ma noi, ripeto, come capo di gabinetto ci siamo raccomandati che se non si trovano queste soluzioni entro il mese di luglio, quindi entro l'approvazione della finanziaria che è in atto, logicamente il governo centrale si dovrà preoccupare di problemi decisamente più gravi, addirittura toccheranno il sociale, ecco. Adesso abbiamo un appuntamento con ovviamente la 10ª commissione unità produttiva e, diciamo, riporteremo nuovamente questa nostra esigenza, che è l'esigenza di tanti piccoli e medi imprenditori. L'ultima cosa che le volevo chiedere è questa: se è un po' una battaglia che vi accomuna da nord a sud, immagino che anche il blog, che è Imprese che resistono, ha contatti da tutte le regioni d'Italia. Esatto, sì, è proprio così, quindi vogliamo così demolire un po' questa divisione tra nord e sud, e quindi assolutamente in questo caso l'Italia deve essere unita. E allora... Allora, avete sentito come stanno cercando di organizzarsi anche i piccoli e medi imprenditori, chiedere cose concrete per riuscire a sopravvivere, per cercare di passare questo autunno-inverno che sembra sarà piuttosto caldo e molto complicato per molti di loro. Adesso per noi è venuto il momento di andare sui mercati. Saluto il collega di radio Cor Andrea Fontana. Buonasera Andrea. Buonasera. Allora, intanto possiamo dire ormai con una certa tranquillità che è stata un'altra giornata positiva per l'Europa. Parigi ha guadagnato un punto percentuale, Francoforte l'1,27%, Londra un punto percentuale, a Milano il FTSE Italia All Share più 1,54%, il FTSE MIB più 1,61%. In questo momento rallenta il Dow Jones più 0,28%, si appesantisce il Nasdaq meno 0,36%, in negativo anche lo Standard & Poor's, una lieve flessione dello 0,15%. Quindi tutto sommato comunque l'Europa archivia un'altra seduta positiva. Sì, soprattutto archivia una serie positiva che non si vedeva da marzo, cioè 7 sedute consecutive di rialzo. Non sono state tutte sedute brillanti come quella di oggi, ma comunque insomma un trend che fa ben sperare gli operatori per una nuova ripresa come quella che abbiamo visto in primavera delle borse europee. Una ripresa che oggi è stata guidata in particolare dalla vivacità del settore auto, su cui sta un po' tornando la fiducia anche sui listini, bene anche il settore delle assicurazioni e quello delle materie prime. Allora andiamo a vedere più da vicino che cosa è successo oggi a Milano, lo facciamo in compagnia del collega Andrea Fontana. Andrea, il migliore, non tra i migliori, il migliore autogrill, più 5,45% oggi. Una buona performance per Autogrill, che ha sorpassato decisamente i 6 euro. È stata una buona performance guidata peraltro da indicazioni positive che hanno riguardato un po' tutto il settore del comparto retail, delle vendite al dettaglio dei supermercati, in particolare in Inghilterra i risultati di William Morrison, ma anche di Sainsbury e di Tesco, così come quelli come il buon andamento di Carrefour a Parigi hanno dato la spinta a questo titolo, che è stato, come ricordavi, il migliore del FTSE MIB, seguito poi dagli assicurativi in particolare, ma anche da qualche industriale che si è ben comportato. Infatti uno tra il secondo migliore in lista è Generali, più 3,67%, però insomma poco dopo troviamo Alleanza, più 3,44%. Da quando Generali e Alleanza hanno ufficializzato con l'ok delle assemblee la scorsa settimana il progetto di fusione che porterà appunto Alleanza a confluire in una nuova società interamente controllata da Generali, i due titoli si stanno muovendo al rialzo. Oggi è arrivata anche la promozione di Bank of America Merrill Lynch, che ha portato il prezzo obiettivo di Generali a 15 euro e quindi questo ottimismo del mercato ha portato un po' a puntare nell'ultima settimana su entrambi i titoli assicurativi. Oltre a questi anche Unipol e Fondiaria Sai sono cresciuti di oltre il 3% oggi. Bene anche Finmeccanica, più 3,35%. Per quanto riguarda Finmeccanica, una serie di buone indicazioni, innanzitutto quella che è arrivata dall'amministratore delegato e presidente Pier Francesco Guarguaglini sul fatto che la società saprà rispettare quelli che sono gli obiettivi previsti per quanto riguarda i nuovi ordini, quindi l'incremento del portafoglio ordini con ordini attesi nel breve termine anche dal mercato libico. Sul fronte degli ordini è arrivata anche una promozione, un giudizio positivo per quanto riguarda Finmeccanica dagli analisti di Credit Suisse, ma va detto che il settore della difesa è stato positivamente indirizzato dai conti di Lockheed Martin, che pur accusando una contrazione degli utili ha superato quelle che sono le previsioni del mercato e quindi ha dato spinta a tutto il settore. Un altro titolo che comunque ha concluso la giornata con il segno più, STM, più 0,82%. Sì, per quanto riguarda STM, la spinta è arrivata dai conti di Texas Instruments già da una settimana almeno che STM riflette in maniera positiva quelli che sono i conti dei gruppi tecnologici statunitensi. Abbiamo visto la settimana scorsa quello che era successo con Intel e IBM, e anche oggi è arrivato questo effetto positivo su un gruppo tecnologico italo-francese. Andrea, andiamo a vedere un po' che cosa è successo invece in fondo al listino, tra i titoli che hanno perso, ma insomma anche che si è comportato decisamente meglio rispetto a quelli che hanno perso di più, la Banca Popolare di Milano meno 0,25%. Il pomeriggio è stato piuttosto difficile per gli istituti bancari cooperativi, sì, sia la Popolare di Milano che il Banco Popolare che UBI si sono mossi in territorio negativo e accusando chi più o chi meno una piccola perdita, anche se UBI Banca migliorato decisamente in controtendenza perdendo l'1,3%. Per quanto riguarda BPM, il rosso che l'ha spinta fino a perdere quasi l'1% è derivato dal taglio di Outlook da parte dell'agenzia di rating Fitch, che ha confermato comunque il rating sui titoli dell'istituto milanese. Questo ha un po' peggiorato la performance nel corso del pomeriggio. C'è qualcuno che ci chiede Fiat che cosa ha fatto. Oggi è andata bene, il titolo Fiat ha guadagnato poco più di 3 punti percentuali. Andrea, c'è qualche motivazione particolare per la performance di oggi? L'attesa per i conti trimestrali di domani è stato un po' l'elemento che ha guidato l'andamento del titolo oggi. Oggi, lo abbiamo detto prima, un ottimo comparto auto. Sull'attesa dei conti di domani si è pronunciato anche il presidente Montezemolo, che da Prato ha detto sono estremamente ottimista sui risultati del secondo trimestre. Il mercato lo ha ascoltato e ha portato il titolo a sfiorare ormai gli 8 euro. Andiamo velocemente sul generale. Tiscali più 7,68% oggi, torna a far sentire, a far parlare di sé Saweris. Sì, l'interesse di Wind per Tiscali, che è stato un po' oggi raffreddato per la verità dallo stesso finanziere egiziano, che ha precisato più che altro: non ho mai detto che siamo interessati a Tiscali, ma se fosse in vendita insomma potremmo valutare l'operazione. Certamente ha riacceso gli acquisti sul titolo del gruppo sardo. Oggi ha guadagnato oltre il 7%, e l'attesa di operazioni straordinarie per questa società che attraversa questa fase delicata è certamente accolta dal mercato con una certa euforia. L'ultima battuta, Andrea, sul risanamento. Oggi è una giornata davvero molto complicata. Sì, si attendeva il ritorno in negoziazione di risanamento, che era stata sospesa per ben 3 sedute, in attesa prima di quella che è stata la comunicazione ufficiale della richiesta da parte della Procura di Milano della dichiarazione di fallimento per il gruppo immobiliare, e poi ieri per le dimissioni del presidente Luigi Zunino. Era naturale aspettarsi una seduta difficile, insomma il mercato ha risposto come nelle attese. Il titolo ha perso oltre il 30%, facendo fatica a far prezzo per gran parte della seduta. Grazie ad Andrea Fontana, collega di Radio Cora. A lui buona serata, buon lavoro, e noi siamo in collegamento proprio per parlare degli aggiornamenti sul risanamento con la collega del Sole 24 Ore, Laura Galvagni. Buonasera anche a te, Laura. Buonasera a voi. Allora, queste dimissioni di Luigi Zunino sono arrivate sicuramente più per la spinta impressa dalla Procura piuttosto che dalle condizioni finanziarie, così? Assolutamente sì, c'è stata da un lato la spinta della Procura, che con questa richiesta inaspettata, inattesa, improvvisa del fallimento, ha obbligato a dare un colpo d'acceleratore a quello che doveva essere il piano di ristrutturazione della società. Allo stesso modo ha imposto alle banche anche sostanzialmente di prendere realmente in mano il dossier, e pare peraltro che le banche abbiano avuto un ruolo in qualche modo determinante sulla scelta poi del presidente Luigi Zunino di lasciare appunto la poltrona da numero uno. Anche perché ricordiamo che su Zunino pendono anche accuse di bancarotta, false comunicazioni sociali, quindi una situazione dal punto di vista giudiziario piuttosto complicata. A questo punto, Laura, è possibile capire le banche quale atteggiamento prenderanno, visto che ieri comunque le riunioni sono state piuttosto lunghe, piuttosto concitate? Vorranno lasciare andare la società al proprio destino o dovranno rimettere mano comunque al portafoglio? Allora, anche oggi si sono sostanzialmente susseguite una serie di riunioni, una serie di vertici, di contatti. Non c'è stato un incontro vero e proprio, ma insomma si è mantenuto il filo della comunicazione tra chi si sta occupando del piano di ristrutturazione della società e i principali creditori. Un esito non è ancora stato scritto, nel senso che ovviamente c'è la volontà da un lato delle banche di cercare di salvare il gruppo, dall'altro è evidente che non possono mettere altri denari a scatola chiusa. Hanno bisogno di un piano dettagliato, un piano preciso che non sia solo un piano finanziario, c'è bisogno sostanzialmente anche di un piano industriale, cosa che a quanto pare allo Stato non è ancora stata presentata. Quindi stanno fortemente chiedendo una sorta di integrazione al piano finora predisposto da Leonardo & Co, ecco, che è appunto l'advisor di risanamento. Certo, però diciamo, possiamo fare una stima di quello che dovrebbe essere l'intervento ulteriore delle banche per salvare la società, quindi per salvare il salvabile, insomma, per non perdere tutto? Allo Stato si parla di una manovra complessiva di circa 350 milioni di euro. Una parte servirebbero per mettere in sicurezza un bond convertibile con scadenza 2014 del valore di circa 220 milioni. La parte restante invece dovrebbe essere utilizzata per immettere nuova finanza nella società. Si parla quindi di un finanziamento tra i 50 e i 100 milioni. Lo sforzo quindi non è esagerato, ma è comunque oneroso, considerato che sul gruppo già gravano circa 3 miliardi di euro netti di debiti, e quindi per le banche vorrebbe dire aumentare ulteriormente l'esposizione verso la società senza avere però la certezza poi di una ristrutturazione effettiva. Certo, ricordiamo che tra le banche esposte c'è Intesa San Paolo per 477 milioni, Unicredit per 266, il Banco Popolare per 300 milioni, la Banca Popolare di Milano per 76 milioni di euro. Grazie a Laura Galvagni, in collegamento con noi, la collega del Sole 24 Ore. Ringrazio lei, le auguro buon lavoro, e noi per oggi abbiamo terminato. Io ringrazio in regia Fabio Cantadori, in redazione Barbara Bianchi e Mauro Del Corno. Adesso la linea va al giornale radio, l'appuntamento con Focus Economia è per domani dopo il GR delle 17.